Plus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia. Questa settimana vi tocca la mia conduzione al programma della serata, in cui vi raccontiamo le principali notizie economico-finanziarie. Una settimana che parte in maniera molto interessante per quello che riguarda i mercati finanziari, perché questa mattina gli auspici erano prevalentemente negativi, poi in realtà, in particolar modo per Milano, la prima seduta del 2018 prova a cambiare faccia e adesso abbiamo sul FTSE MIB un rialzo modesto, ma comunque una situazione radicalmente diversa rispetto alle prime battute, alle prime ore appunto della giornata. A tenere banco in realtà, più che l'andamento del mercato azionario in questa prima seduta del 2018, è l'andamento del mercato valutario, perché continua a spingere l'euro rispetto al dollaro. Stamattina, nelle ore passate, è stato toccato un top, un record, un livello piuttosto alto a 1,20,83, adesso siamo a 1,20,51, siamo comunque ai massimi livelli da tre anni a questa parte, dal gennaio del 2015, e questa circostanza sta naturalmente mettendo un po' il freno alle società che risultano penalizzate da un euro forte, perché mina questa situazione la loro competitività sui mercati internazionali, ma avremo modo appunto di parlarne più tardi, analizzando anche poi nel dettaglio la giornata di Piazza Affari, che peraltro vede primeggiare tra i migliori titoli proprio la Fiat Chrysler, che adesso guadagna 1,5 punti, che era partita molto male questa mattina, e gli analisti commentavano: vabbè, dopo il più 73% fatto nel 2017, facendola risultare di gran lunga il miglior titolo appunto di tutta Piazza Affari dello scorso anno, qualche presa di profitto stamattina ci stava. E invece poi, forse anche per la sensibilità che questo titolo ha all'andamento del mercato valutario, in realtà è tornata in positivo. Poi cercheremo di capire se ci sono delle ragioni precise dietro a questo movimento. Tra i migliori titoli ve li segnalo già, perché so che siete abituati in questo momento della giornata ad avere un rapidissimo resoconto veloce delle migliori prestazioni di Piazza Affari. Vi segnalo, a circa 20 minuti dalla chiusura delle contrattazioni, l'andamento di Unipol più 3%, Fiat dicevamo più 1,54%, STM più 1,48%, Leonardo Finmeccanica più 1,41%. Rimangono ancora negative le altre piazze europee: abbiamo un calo di 0,5 punti a Parigi, Francoforte meno 0,28%, Londra meno 0,54%, mentre è positiva Wall Street. Il Dow Jones guadagna lo 0,25%, lo Standard & Poor's lo 0,64%, quindi per gli Stati Uniti la prima seduta dell'anno è già piuttosto brillante e continua a mettere a segno un record dietro l'altro Wall Street. Parleremo di questo ovviamente stasera, ma parleremo anche di altro. Allora, continua ancora a far parlare di sé il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, come ricorderete per chi di voi ha l'abitudine di seguirlo, ha rivolto un monito molto molto sentito, molto forte, ai partiti politici che si stanno già cominciando a preparare appunto per la competizione elettorale che sfocerà nel voto del 4 marzo. Mattarella ha detto che i partiti hanno il dovere preciso di elaborare e proporre all'elettorato delle proposte adeguate, realistiche e concrete, perché questo dovere è richiesto dalle dimensioni dei problemi del Paese. Ha parlato poi, lo ricorderete, anche di lavoro e giovani, perché ha ricordato come quella della occupazione giovanile rimanga la prima emergenza nazionale, la più grave questione sociale, ha detto esattamente, per i giovani. Il problema del lavoro resta un problema naturalmente per i giovani, innanzitutto per loro, ma non soltanto per loro. Allora, proprio a proposito però di questo monito rivolto ai partiti e a questo invito a formulare proposte politiche anche adeguate per ottenere il consenso elettorale, stamattina il Sole 24 Ore ha fatto un check-up di tutte le proposte per capire quanto costino tutte le idee che in questo momento i partiti hanno e che stanno mettendo sul piatto per guadagnare appunto elettorato. Ne parleremo tra poco con il nostro Dino Pesole del Sole 24 Ore, perché in realtà le promesse sono tante, ma non tutte hanno grande sostenibilità economica alle spalle per poter essere poi realizzate, e noi abbiamo il fiato sul collo ruolo da parte di Bruxelles, appunto dell'Europa, che ci guarda molto attentamente, perché i nostri conti ovviamente sono sempre in grossa difficoltà. Abbiamo un grosso fardello del debito pubblico, un PIL che rimane sempre fanalino di coda nel resto d'Europa, e quindi chiaramente i partiti devono fare la loro parte non solo per guadagnare voti, ma anche per consolidare questo segnale di crescita a cui l'Italia sarebbe ritornata nell'ultimo anno. E tra poco ne parleremo. Gli altri temi della serata: parleremo dei saldi, perché oggi parte con la Basilicata la stagione dei saldi 2018, quindi quali sono le aspettative anche delle organizzazioni che rappresentano il commercio, oltre che dei consumatori. Chissà com'è andata la stagione delle vendite in questo dicembre 2017, e quindi più tardi con Confesercenti faremo il punto della situazione. Tra gli altri temi di cui parleremo, aspettiamo alle 18 la diffusione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dei dati sulle immatricolazioni di auto in dicembre, ma il dato di dicembre in genere è molto importante, perché poi ci racconta il Ministero dei Trasporti anche come è andato tutto l'anno, e quindi faremo un punto della situazione sullo stato di salute del mercato automobilistico in Italia. Anche il 2017 è andato molto bene, qualche anticipazione parla di quasi 2 milioni di immatricolazioni realizzate lo scorso anno, e quindi vedremo se questi dati saranno confermati. Parleremo ovviamente anche di mercati finanziari, e poi vi anticipo appunto che vi racconteremo anche di un rapporto che è stato diffuso oggi. È l'International Business Report, che è realizzato da una grande società di consulenza, è Graham Thornton, e ci racconta, vi do qualche anticipazione che poi approfondiremo con il co-managing partner di questa società di consulenza, appunto, che ci racconta appunto questo rapporto, come viene percepito intanto lo stato di salute del paese da parte delle imprese. Le imprese dicono che prevedono di fare assunzioni l'anno prossimo, ma cercheremo di dare anche una quantificazione rispetto a questa promessa. Ma ci saranno pochi investimenti in tecnologia. L'ondata di ottimismo però c'è, e secondo Graham Thornton raggiunge livelli record in Italia, e allora a noi spetterà il compito di analizzare questo ottimismo dal punto di vista qualitativo. Però insomma sono temi interessanti, appunto, vi ribadisco, cercheremo di capire cosa vogliono fare le imprese l'anno prossimo secondo questa elaborazione. Questo è un po' il sommario di questa sera, quello che bolle in pentola per la nostra Focus, per il nostro Focus Economia di questa sera. Focus Economia, a cui potete partecipare scrivendoci i vostri messaggi al 349-238-6666. Noi riceviamo gli sms, riceviamo anche i vostri whatsapp, e direi che siamo pronti per partire. Come sempre in questo momento partiamo con le notizie in breve. Allora, sui mercati finanziari vi ho già dato il punto della situazione, vi ho già fatto il punto della situazione. Per quello che riguarda le materie prime c'è molto fermento anche qua, perché il petrolio sta piano piano guadagnando posizioni da qualche giorno a questa parte. A New York siamo sopra i $60 al barile, a Londra eravamo intorno ai 66,5. Stiamo naturalmente risentendo, questo è un mercato che risente ovviamente dei disordini in Iran, ma continuano ancora a farsi sentire anche i tagli produttivi dell'OPEC, appunto, e della Russia. Parlavamo prima di ottimismo delle imprese, secondo quello che ci racconta questo rapporto di Graham Thornton, che analizzeremo più tardi, ma ottimismo sembra essere anche la parola d'ordine delle aziende americane all'inizio del 2018, complice anche la riforma fiscale voluta dal presidente Trump. E i vertici delle società si preparerebbero a mettere a punto nuovi piani di investimento per migliorare fabbriche ed apparecchiature, cosa che potrà avere ricadute positive sulla crescita economica, sulla creazione di posti di lavoro. Peraltro proprio questo venerdì avremo il dato sulla disoccupazione americana di dicembre. Queste notizie stamattina sono riportate, quest'oggi sono riportate dal New York Times, e ad incoraggiare le aziende sarebbe il fatto, secondo il giornale, che l'amministrazione Trump non ha introdotto regole più stringenti per il settore, anzi ha promesso di ammorbidire ulteriormente in futuro le norme, parliamo appunto di settore fiscale, visto che è arrivata la riduzione dell'aliquota corporate dal 35 al 21%, questo è chiaramente il tema che sta incoraggiando le aziende ad avere una prospettiva positiva per l'anno che si sta aprendo. È opinione comune che non ci saranno altre lotte sulla regolamentazione e, cosa importante, non spenderemo di più, ha detto Granger McDonald, costruttore edile nel Texas, interpellato dal New York Times, ed è una delle testimonianze appunto che confermano questo ottimismo di tutte le aziende americane legato all'agenda economica del presidente statunitense. Allora, c'è stato un buon dato economico stamattina in Europa ed è il dato misura la fiducia che hanno i direttori di acquisto delle aziende operanti nel comparto manifatturiero. Sono stati misurati stamattina gli indici riferiti ad ogni economia europea. Abbiamo anche il dato che sintetizza tutto l'andamento appunto dell'Eurozona, ed è un dato particolarmente buono quello di dicembre, perché l'indice PMI manifattura europeo è salito a dicembre a 60,6 punti. È un dato molto importante. Intanto, se il dato si trova sopra i 50 punti esprime espansione economica, al di sotto dei 50 siamo in un'area di contrazione economica, essendo a 60 insomma ci sembra che l'espansione economica europea possa dirsi confermata in prospettiva, quindi ulteriormente positiva. Speriamo che tutto ciò non venga compromesso da questo euro forte, e già però qualcuno comincia ad esprimere un po' di preoccupazione rispetto all'andamento così vivace della moneta unica europea. Il rialzo dell'euro frena le esportazioni made in Italy negli Stati Uniti dopo un 2017 che invece aveva visto un aumento del 9% per un importo record di circa 40 miliardi di euro. Questa analisi oggi è stata rilasciata dalla Coldiretti. La nuova strategia statunitense America First, sostiene la Coldiretti, sembra avere i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare cara all'Italia. Gli Stati Uniti sono del resto di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori dall'Unione Europea, con un impatto rilevante anche e soprattutto direi per l'agroalimentare. Le esportazioni di cibo e bevande dall'Italia sono aumentate del 6% nel 2017 per un totale di circa 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. Ricordiamo ancora che gli Stati Uniti, e lo ricorda ancora la Coldiretti, si collocano al terzo posto fra i principali Italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna. E il vino continua ad essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi. Un'altra notizia interessante per chi è appassionato alle questioni di genere e ha soprattutto le implicazioni economiche: l'Islanda è diventata il primo paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna. Da ieri, 1 gennaio 2018, aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare carta canta con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi uomini, altrimenti le aziende saranno punite appunto con un'ammenda. L'Islanda non è nuova a misure che promuovono l'uguaglianza fra uomo e donna, tanto che negli ultimi 9 anni è stata al primo posto della lista dei paesi più avanti nella parità di genere stilata dal World Economic Forum. Allora, vi rileggo una notizia che abbiamo già dato anche nel corso del giornale radio, ma che generalmente è un tema che interessa moltissimi ascoltatori. Le fasce orarie di reperibilità non cambiano, restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e pubblicato in Gazzetta, le norme saranno in vigore dal 13 gennaio. Questo significa che salta l'armonizzazione tra i settori indicata nella riforma del pubblico impiego, per cui le fasce di reperibilità tra pubblico e privato rimangono diverse. Ci riferiamo a quella reperibilità appunto che deve essere garantita dai dipendenti che stanno a casa per malattia. Nel dettaglio, il decreto individua le fasce di reperibilità fra le 9 e le 13 e le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la pubblica amministrazione, lasciando immutata la differenziazione tra pubblico e privato, dove le finestre sono invece più brevi, ricomprese fra le 10 e le 12 e le 17 e le 19. Allora, altre notizie in breve prima del primo approfondimento che vi posso leggere, magari vi do conto di questa notizia che si riferisce all'attività dell'ANAS, che con la recente approvazione del cosiddetto contratto di programma nel mese di dicembre ha pubblicato 51 bandi per oltre 150 lotti e con un importo superiore ad 1 miliardo di euro, chiudendo il 2017 con un valore complessivo di gare lanciate pari circa 2,5 miliardi di euro. È una significativa iniezione di risorse per il mercato delle infrastrutture, lo ha detto il presidente di ANAS Gianni Vittorio Armani, una iniezione di liquidità destinata a rilanciare il settore e ad aumentare la forza lavoro impiegata, ma noi speriamo soprattutto in un miglioramento appunto della rete infrastrutturale del nostro paese, perché decisamente ne continuiamo ad avere bisogno. Il 2018 parte con gli sconti di fine stagione, noi ne parleremo tra una mezz'oretta circa. Tra oggi e sabato scattano in tutta Italia i saldi invernali, appuntamento particolarmente atteso dai consumatori, soprattutto da quelli che magari avevano così avvistato l'acquisto da fare a prezzo pieno e hanno deciso appunto di attendere che arrivasse il saldo e quindi lo sconto tradizionale. Naturalmente è un appuntamento inteso anche da parte delle imprese, che sperano di rifarsi dopo un ennesimo anno non facilissimo per i consumi nel nostro paese. Oggi apre la Basilicata, domani tocca alla Valle d'Aosta e da venerdì gran parte delle regioni avviano le vendite scontate. Il profilo dei saldi è stato già tracciato dalla Confesercenti, che in un'indagine con SVG stima una partecipazione quest'anno particolarmente elevata di negozianti e consumatori. Gli sconti saranno applicati da circa 280.000 attività commerciali. Caro Paolo, direi che forse è il momento di cambiare colonna sonora, perché darei il via al primo approfondimento di questa sera. Allora, ve lo anticipavo prima, ma vi dicevo anche che probabilmente gli appassionati e gli affezionati a questo appuntamento di fine anno avranno fatto caso al tono del discorso utilizzato da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, appunto nel discorso di fine anno. In vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo, visto che Mattarella qualche giorno fa ha sciolto anche le Camere, indicando nel 4 marzo la data in cui si dovranno tenere le prossime elezioni politiche, appunto il capo dello Stato nel suo discorso di fine anno ha fatto qualcosa di molto importante quest'anno in vista di questo appuntamento. Ha richiamato i partiti al dovere di presentarsi con proposte realistiche e concrete, capaci di rispondere, ha detto così testualmente, alla dimensione dei problemi del paese. E il Sole 24 Ore questa mattina che cosa ha fatto? Ha dato un'occhiata a tutti i canovacci di programma che le diverse forze politiche stanno propagandando da settimane. E ha rilevato che di questo dovere, nella presentazione di proposte realistiche e concrete, non ci sarebbe al momento traccia. Anzi, i partiti sembrano proprio, lo dice testualmente il Sole, aver ingaggiato una gara per accaparrarsi il consenso elettorale, promettendo sconti fiscali, aiuti ai disoccupati, abbassamento dell'età per accedere alla pensione, aumenti degli assegni previdenziali, fino all'estrema proposta di Salvini, che è il suo grande cavallo di battaglia, di abolire la legge Fornero, e chi più ne ha più ne mette. Ognuna di queste voci naturalmente costa diverse decine di miliardi di euro e i proponenti sostengono di poter ricavare questo denaro. In che maniera? Ricette proprio chiare, credibili non ne danno, ma parlano di una serie di risparmi o partite di giro. Chissà se ha capito qualcosa in più rispetto a quello che bolle in pentola delle varie forze politiche il nostro Dino Pesole del Sole 24 Ore, che salutiamo. Dino, buonasera. Buonasera Deborah, buon anno a te e agli ascoltatori. Allora, intanto ti confermo che il tuo telefono si sente bene in questo momento, perché era la nostra preoccupazione, e invece ti sentiamo benissimo, ci fa piacere. Quindi il tuo messaggio alla nazione dopo quello di Mattarella sarà particolarmente chiaro. Allora, ti chiedo così un po' un commento rispetto a tutto questo preambolo che ho fatto, ricordando anche l'analisi più specifica che stamattina ha fatto il Sole 24 Ore. Detto questo, noi non è che possiamo andare a questo appuntamento elettorale così alla cieca e alla leggera, perché in tanti ci guardano, i mercati ci guardano, Bruxelles ci guarda, Dino, per cui in realtà tutte queste promesse elettorali, vabbè, adesso la prima settimana dell'anno gliela concediamo anche, ma dalla Befana in avanti queste proposte dovranno trasformarsi in piani molto seri e concreti. Cosa ne pensi di quello che è stato il dibattito fino a questo momento? Io credo che molto opportunamente il presidente Mattarella abbia richiamato tutti a una, come dire, lezione di sano realismo. Diciamo subito che il conteggio delle varie proposte che sono state messe in campo finora, e poi chissà quante altre ne vedremo nelle prossime settimane, è nettamente e sostanzialmente incompatibile con lo stato della nostra finanza pubblica. Noi abbiamo calcolato sul Sole 24 Ore di oggi che la somma delle proposte arriverebbe a una cifra astronomica, addirittura a 130 miliardi. Se poi a queste vogliamo assommare anche gli ipotetici mancati risparmi dell'abolizione della riforma Fornero, che l'INPS calcola in 140 miliardi, arriviamo a cifre astronomiche. Mostra, come si dice, esatto. Ecco, allora, a parte le cifre, va benissimo, possiamo pure darlo per scontato che in campagna elettorale si tenda in qualche modo a promettere la luna, ma diciamo subito che noi, come giornale, come giornalisti, ma devo dire questo forse probabilmente ci tocca in prima persona, abbiamo il dovere di spiegare come stanno le cose, e le cose stanno esattamente come le conosciamo. Noi continuiamo ad avere un vincolo che deriva dal nostro debito pubblico, che non è che si annulla con un tratto di penna, ci piacerebbe ma non è possibile, un debito pubblico che assomma 2.300 miliardi in valore assoluto, in rapporto al PIL siamo oltre al 130%, questo vuol dire che abbiamo la necessità di finanziarlo sul mercato, e per finanziarlo sul mercato lo Stato deve emettere circa 400 miliardi l'anno di titoli. Allora, per finanziarlo e per renderlo sostenibile, noi abbiamo bisogno di rendere credibili le proposte politiche che va, ecco qui il messaggio di Mattarella, che i partiti vanno a presentare agli elettori. Credibili vuol dire, va benissimo promettere sconti fiscali, ma mi si deve spiegare, ci si deve spiegare come questi sconti fiscali vengono coperti. E qui siamo alle dolenti note, perché se noi andiamo ad esaminare il dettaglio delle proposte di sgravi fiscali, dalla flat tax all'abolizione della Fornero, al reddito di cittadinanza, il bonus di 80 euro di Renzi, perché lui su quello insiste e ovviamente se avrà consenso politico lo vuole continuare a mantenere, naturalmente anche quello non è che non costi. Certamente abbiamo come ipotesi di finanziamento due voci sostanzialmente, quella di far fronte con non ancora ben precisati tagli alla spesa e attraverso il ricorso alla leva fiscale. Ad esempio i 5 Stelle propongono di mettere mano alle cosiddette agevolazioni fiscali. Allora, ricordo che questo è un capitolo certamente importante, perché noi abbiamo 760 agevolazioni fiscali nel nostro ordinamento che, secondo i calcoli che la commissione presieduta da Vieri Ceriani aveva effettuato negli anni scorsi, erodono gettito per 140 miliardi. Però, e qui è il però, e qui è la variabile tutta politica, andiamo a vedere cosa sono questi sconti fiscali e andiamo a capire perché finora non ci si è messo mano. Faccio un esempio: vogliamo togliere gli sgravi fiscali agli autotrasportatori? Benissimo, possiamo pure farlo, se non che poi il costo che ne deriverebbe probabilmente andrebbe a cadere su tutti i consumatori, perché evidentemente ponendo meno una fonte di entrata gli autotrasportatori si rifarebbero altrove. Vogliamo togliere le detrazioni per i figli a carico? Non lo so, faccio degli esempi. E l'altra cosa che va ribadita, e questo in risposta alle proposte suggestive di una flat tax, cioè una tassa piatta, si può anche fare, ma bisognerebbe spiegare che nel nostro ordinamento, così come prevede la Costituzione, è sancito il principio della progressività. Allora, se noi facciamo una tassa piatta che vale per tutti, vale a dire per i miliardari al pari di chi guadagna... Certo, è iniqua. Esatto. Allora, bisogna spiegare perché questo è come andrebbe a... come dire, a incidere su questo principio costituzionale. Come viene garantita la progressività se fai una flat tax? L'1%, allora, tanto per banalizzare, su chi guadagna 1000 euro al mese o porta a casa una pensione da 800 euro al mese non ha lo stesso peso di un 1% naturalmente su chi porta a casa 1 milione di euro. Ti blocco per un attimo, Dino, perché tra i tanti richiami fatti da Mattarella nel suo discorso di fine anno c'è anche quello molto importante sul tema del lavoro, e questo ci piacerebbe farlo riascoltare, questo passaggio. Aspetta. Orizzonte del futuro costituisce quindi il vero oggetto dell'imminente confronto elettorale, il dovere di proposte adeguate, proposte realistiche e concrete, è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi del nostro Paese. Non è mio compito formulare indicazioni, mi limito a sottolineare ancora una volta che il lavoro resta la prima e la più grave questione sociale, anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro. È necessario che ve ne sia in ogni famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza per tutti coloro che lavorano. Ecco Dino, ma è normale che in tutto questo inizio di campagna elettorale ancora nessuna forza politica questa parola l'abbia pronunciata con un'idea di quello che si possa fare per implementare le politiche attive del lavoro? E soprattutto un altro tema, mi pare che nessuno abbia capito se tutte queste promesse fatte portano al mantenimento del tasso di crescita del PIL, appunto, del nostro paese, che è stato avviato, che si intravede già. Insomma, da cosa vuoi partire? Beh, allora, diciamo subito che noi fortunatamente nel 2018, il 2018 comincia con dei dati che riguardano l'economia nazionale che sono fortunatamente per una volta più incoraggianti. Il 2017 probabilmente si è chiuso con un incremento del PIL attorno all'1,5%, certo non siamo a tassi di incremento e di sviluppo della nostra ricchezza nazionale ancora quali quelli che potremmo aspettarci, ma comunque è un segnale di inversione di tendenza se consideriamo che durante la crisi noi abbiamo perso 8 punti di PIL, quindi va benissimo crescere, il problema è che questa crescita va consolidata e va incrementata, e lo si fa con proposte credibili, e di nuovo Mattarella, perché se noi continuiamo in campagna elettorale a promettere la luna, magari c'è qualcuno che potrebbe cominciare a intravedere, ad esempio nei mercati, che sono quelli che finanziano il nostro debito, il rischio che poi chi va al governo queste proposte non riesca a mantenerle, oppure addirittura le mantenga, ma, come dire, scardinando i conti pubblici. Il fatto che non ci sia il lavoro in primissimo piano è un fatto grave, perché il lavoro è la nostra prima, vera, grande emergenza. Allora bisogna fare una lezione di ulteriore realismo e cominciare a spiegare a tutti i partiti che si contendono il potere nelle prossime elezioni che la priorità assoluta è questa, e dunque se per caso, e io credo che ci siano i margini francamente per individuare risorse a sostegno della crescita, vanno tutte a sostegno, a incrementare e dunque ad alleggerire il costo del lavoro. Certo. È una proposta che il Sole 24 Ore ha fatto da sempre, anche in qualche modo criticando la scelta del governo Renzi di aver concentrato 10 miliardi l'anno perché tanto costa i famosi 80 euro. Per noi sarebbe stato preferibile dirottarli verso il taglio più robusto del cuneo fiscale. Bene, si faccia questo piuttosto che promettere tasse piatte o abolizioni improbabili, per non parlare poi di chi propone l'uscita dall'euro oppure di rivedere in via unilaterale fiscal compact di trattati europei. No, questo non si può proprio fare, e dunque massima attenzione, massimo realismo, e credo che alla fine poi gli elettori lo capiranno, perché sapremo tutti capire e distinguere tra chi promette la luna e chi fa invece proposte realistiche e concretamente realizzabili. L'occupazione è al primo posto, certo, l'occupazione lo diciamo sempre tutti, non è che la creiamo con la bacchetta magica, si creano posti di lavoro se l'economia riprende a crescere in modo stabile e duraturo. Ma attenzione, perché Mattarella dice: guardiamo i posti di lavoro, ma salvaguardiamo anche i diritti. E insomma, mi sembrano argomenti fondamentali per una campagna elettorale. Esatto, speriamo in qualche maniera di aver sensibilizzato, insomma, le forze politiche a presentarsi con delle ricette concrete anche da questo punto di vista. Solo un minuto, Dino, prima di salutarti, per chiederti: una volta che avremo il quadro politico preciso che rappresenta le scelte del nostro paese, appunto l'elettorato italiano dal 4 marzo in avanti, da lì ci saranno altri appuntamenti di confronto molto rilevanti con Bruxelles. Ci racconti le cose più importanti che accadranno, e a questi appuntamenti bisognerebbe andare anche già subito con un'idea di governo abbastanza precisa. Chissà se questo avverrà. E già questo è un passaggio fondamentale, perché noi abbiamo degli obblighi che ci derivano dal fatto che apparteniamo alla casa comune europea, e ad esempio dobbiamo, tanto per dirne una, avviare una trattativa fin d'ora con Bruxelles, che già ci ha fatto sapere che in maggio dirà la sua sulla legge di bilancio, e molto probabilmente ci dirà che non siamo in linea con gli obiettivi di contenimento del deficit. Ad esempio, potrebbe chiederci una correzione dei conti pubblici tra i 3 e i 4 miliardi. Questo potrà avvenire o non avvenire, c'è una trattativa politica, ma nel frattempo questo governo, perché immagino sarà questo governo a doverlo fare, perché mi sembra improbabile che ad aprile già ci sia la formazione di un nuovo governo, dovrà presentare a Bruxelles il nuovo documento di economia e finanza, che è il documento programmatico che prelude a tutte le decisioni di finanza pubblica e di politica economica da qua ai prossimi 6 mesi. Quindi comunque va garantita una continuità di azione, e già nel documento di economia e finanza, e da qui fino a marzo, l'attuale ministro, il ministro Padoan, dovrà andare a Bruxelles e cominciare a capire con la Commissione europea se e in che modo ci sono margini per evitare che questa manovra correttiva venga attuata subito dopo le elezioni. Come lo si fa? Beh, lo si fa con la politica, appunto, lo si fa con le trattative e con la credibilità, ancora una volta, che deriva dalla serietà delle proposte che si mettono in campo. Esatto, secondo me lo spread nelle prossime settimane ci dirà qualcosa su quanto, esatto, i mercati e non solo saranno convinti dalle proposte elettorali che pian piano cominceranno a farsi largo, a farsi sempre più chiare. Intanto, Dino, grazie per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro e buon anno soprattutto. Grazie, buon anno a te. Il primo ospite di Focus Economia del 2018, adesso andiamo al nostro primo blocco pubblicitario, ma torniamo tra pochissimo per raccontarvi come si chiude la giornata finanziaria. Focus Economia. Il signor Dino è palesemente un portavoce del governo, scrive un amico che ci ascolta, Alberto, ma secondo me Dino Pesole non ne ha mandate a dire a nessuna delle forze politiche in questo momento già palesemente avviate invece questa campagna elettorale, che sarà sicuramente molto divertente ad essere seguita. Dino Pesole ha detto che nessuna delle forze politiche al momento, tra chi sta ancora al governo e chi è all'opposizione, chi contesta e basta senza fare alcunché, ha presentato una proposta credibile, per cui solamente grandi promesse di tagli qua e là, nessuna proposta credibile per il lavoro, per sostenere la crescita economica di cui il nostro paese ha bisogno, per cui sinceramente non mi trovo d'accordo questo messaggio, ma vabbè, detto questo, siamo aperti a ricevere tutto quello che volete mandarci. Detto ciò, adesso è il tempo appunto di raccontare la giornata di borsa, che si chiude con Milano in leggero ribasso, meno 0,04%, quindi molto meglio rispetto a come stavano andando le cose stamattina, un po' peggio rispetto a come un'oretta fa stavano andando, perché Milano si era portata in territorio positivo e insomma sembrava volerci promettere di chiudere la prima seduta del 2018 con il segno più. Così non è stato, ma comunque ci accontentiamo di questa prestazione sulla parità. Peggio le cose per il resto d'Europa: Parigi scende dello 0,45%, Francoforte al momento meno 0,36%, Londra meno 0,68%, e sta riducendo i suoi guadagni anche Wall Street. Lo Standard & Poor's rimane con un guadagno di mezzo punto percentuale, mentre il Dow Jones è in leggero rialzo, più 0,09%. Come vi ho promesso stamattina, Stasera torna a trovarci per commentare la seduta di borsa Massimo Saitta, direttore investimenti di Intermonte Advisory e Gestione. Buonasera Massimo e ben trovato, grazie. Buonasera anche ai nostri ascoltatori. Allora, come mai tutta questa indecisione oggi in borsa? Perché la partenza stamattina è stata brusca, Milano è arrivata a perdere quasi un punto, noi abbiamo attribuito anche queste prestazioni negative degli indici europei a questo euro forte e poi in realtà molte società si sono riaggiustate e hanno preferito cambiare direzione. Come la dobbiamo leggere questa seduta a doppia faccia? Beh, innanzitutto va letta nel contesto del fatto che oggi è il 2 di gennaio, quindi una giornata, almeno per quanto riguarda gli operatori italiani, ancora in larga parte di vacanza. E quindi praticamente il suo ufficio è tutto vuoto, ci sta dicendo che sta solo lei in bottega oggi. In effetti no, nel senso noi un po' tutti chiaramente sono staffati in modo tale da avere una copertura continua ovviamente, tuttavia è innegabile che i giorni a ridosso della fine dell'anno e delle vacanze di Natale in genere sono comunque giornate di volumi piuttosto bassi. Come giustamente avete rilevato, il dollaro è stato probabilmente un po' il motore dell'andamento di quest'oggi, nel senso che ha probabilmente in un contesto, come si diceva, di volumi piuttosto leggeri, girato un po' a vuoto per alcune ore questa mattina, andando a toccare appunto quei titoli che sono più legati alla crescita del dollaro e quindi al contrario sul suo indebolimento, penalizzandoli oltremodo. In corso di giornata un mercato più ordinato ha limato le perdite su molti di questi titoli e anche l'indice nel suo complesso si è mosso meglio, con alcuni settori che erano un po' quelli che forse avevamo già definito stamattina in maggiore evidenza, certo. Quindi con le banche, il settore petrolifero Ecco, tra l'altro il settore petrolifero, il petrolio piano piano intanto sta risalendo, sostiene alcuni titoli come Saipem che l'anno scorso sono stati molto bastonati, lo abbiamo ricordato anche stamattina, Saipem l'anno scorso ha perso oltre 28 punti percentuali, è stato il peggior titolo di Piazza Affari, quantomeno recupera un po', ma in ogni caso anche alla luce degli scenari geopolitici, gli ultimi disordini in Iran, Saitta probabilmente è destinato questo ad essere un settore un po' nervoso quest'anno? Direi di sì, c'è anche di questo credo di aver già parlato questa mattina, un po' il collocamento di Saudi Aramco. Che è il collocamento del 2018, un collocamento mostra con anche qua, compagnia petrolifera parlato, saudita per decifrare agli ascoltatori, sì. con importanti riflessi di natura geopolitica ovviamente. È indubbio che anche il tema comunque dell'Iran è un po' old style, nel senso che i problemi nelle aree produttive erano più un elemento di preoccupazione negli anni fa, ultimamente ce ne siamo un po' dimenticati, però in realtà in giornate come queste sono tornate un po' ad avere il loro peso. Senta, no, mi incuriosisce invece, se non vuole magari proprio esprimersi sul titolo singolo, perché voi fate sempre un po' fatica, ma così ragioniamo a livello settoriale, Fiat, sì. È stato il miglior titolo dell'anno scorso, ha guadagnato più del 70%, tra poco, fra un quarto d'ora, avremo i dati sulle matricolazioni in Italia, anche se Fiat ormai è un player internazionale, ovviamente guarda molto anche a quello che sono gli scenari di mercato sul tessuto statunitense, però questo titolo insomma stamattina è partito male, si portava con sé anche Ferrari, Brembo perché fa i freni e poi ha cambiato faccia anche il gruppo automobilistico ormai americano, possiamo chiamarlo così perché proprio definirlo italiano facciamo fatica a non dirlo più, però dobbiamo anche dirlo. Ma secondo lei qua invece questo settore cosa ci racconta? Ci racconta forse un eccesso di preoccupazioni proprio sui dati di questa sera, ma soprattutto secondo me racconta che l'operatività ha sempre più ormai una connotazione settoriale quasi più che sul singolo titolo, o spesso il settore prevale nel brevissimo periodo anche sull'andamento del singolo titolo. Lo dico perché le perdite di stamattina di Fiat erano comunque in un contesto in cui anche Volkswagen perdeva oltre 2,5 punti, Peugeot all'incirca la stessa cosa nel pomeriggio, pur non portandosi in territorio positivo come ha fatto Fiat, anche le altre case europee hanno recuperato, quindi c'è indiscutibilmente discutibilmente un movimento di settore, probabilmente Fiat era già stata anche molto penalizzata nelle ultime sedute del 2017, quindi ha avuto un po' più di spazio per un rimbalzo tecnico. Certo, più penalizzata, ma tuttavia portata a casa la miglior prestazione dello scorso anno. Il miglior titolo in assoluto in questa seduta è Unipol, segna più 3,27%, bene anche la difesa, Leonardo Finmeccanica più 1,61%, oggi il Sole 24 Ore pubblica qualche anticipazione sulle linee strategiche che il gruppo presenterà a breve, e il Sole ha fatto una preanalisi dei nuovi piani strategici non solo di Leonardo Finmeccanica ma anche di Poste Italiane, Intesa San Paolo, tre grandi gruppi che a breve apriranno appunto le danze della presentazione dei nuovi piani industriali. Bene Buzzi Unicem più 1,47, STM più 1,26, quindi vedo una situazione piuttosto mista in quanto a comparti tra i migliori titoli appunto di oggi a Piazza Affari, mentre i peggiori rimangono Brembo che perde quasi 2 punti, meno 1,7 per Italgas, meno 1,62% per Banca Generali, Campari meno 1,40%, abbiamo un ribasso di oltre 1 punto per A2A, Snam, BPR Banca e Generali. Solo 30 secondi, Saitta, per un ultimo commento sull'apertura dell'anno finanziario per le banche italiane. Allora, le banche sono tra i settori che hanno due leve che in linea di massima potrebbero essere positive, appunto rapportate al contesto bancario, e sono il tema dei tassi, perché le banche in realtà hanno bisogno di un rialzo dei tassi che non sia esagerato, cioè che non crei rischi di fiammate dei tassi o che siano incontrollabili, ma un leggero rialzo gioca positivamente perché gli consente di riprezzare i prestiti a livelli migliori e ne ha bisogno anche se un rialzo dei tassi indica una maggior forza della ripresa economica. Insomma, il combinato dei due è senz'altro un elemento positivo. Il negativo rimane sempre il tema della sorveglianza, in particolare della parte non performing, della copertura della parte non performing, che per alcune banche potrebbe essere ancora un problema. Ancora un problema. Grazie a Massimo Saitta, Intermonte Advisory e Gestione, per essere stato con noi. Di nuovo buon anno, ci sentiamo presto. Altrettanto. Buona serata. Adesso sì, è il tempo della nuova pausa, c'è il traffico adesso, sai che io mi sbaglio sempre la sera perché non mi ricordo bene se c'è il traffico, il meteo, che cos'altro, c'è il traffico adesso, tra poco. Focus Economia. E come da tradizione, naturalmente, questa è una giornata molto interessante per i patiti di shopping, e perché no, perché non confessarlo candidamente che fra questi ci sono pure io, chi non aspetta la stagione dei saldi. Si parte da oggi dunque e entro sabato saranno partiti i saldi invernali in tutte le regioni d'Italia. Apre come di consueto la Basilicata, seguirà la Valle d'Aosta e poi venerdì gran parte delle regioni avvieranno le vendite scontate. Allora, si stima già che quasi un consumatore su due sia già pronto a partecipare ai saldi, siamo lì tutti quanti pronti a tagliare questo traguardo. E quest'anno partono da subito riduzioni di prezzi, a quanto sembra particolarmente alte, sicuramente più alte della media degli ultimi anni. Lo dice la Confesercenti, che in un'indagine con SVG stima una partecipazione particolarmente elevata di negozianti e consumatori. Gli sconti saranno applicati da circa 280.000 attività commerciali. Non voglio dirvi niente di più perché lo lascio fare a Mauro Bussoni, vice direttore di Confesercenti, che saluto. Buonasera e buon anno. Buonasera a voi, buon anno. Allora, cosa vi aspettate da questa stagione di sconti, questo inizio del 2018, sotto quali auspici si apre secondo la vostra organizzazione di categoria? Le attese e le previsioni sono buone, e si tratterà poi dopo di capire al consuntivo come andrà. Già il Natale è andato, diciamo, così così. Avevamo una serie di previsioni che ci indicava comunque un buon Natale, è stato un Natale buonino, anzi diciamo discreto, quindi è andata meno bene di quanto si potesse prevedere. In che cosa vi ha deluso, Bussoni? Ma in particolare ci sono alcuni settori che non sono andati, ad esempio il settore dell'abbigliamento non è andato, per Natale, per le festività hanno avuto successo i prodotti alimentari, i viaggi, il tempo libero, ecco, beni di consumo al di fuori degli alimentari non sono andati benissimo, quindi ci aspettiamo per i saldi un ritorno interessante, oltretutto i consumatori sono molto attenti, quindi aspettano il periodo dei saldi perché sanno che possono fare degli acquisti convenienti e di conseguenza ci si potrebbe anche attendere un 2018 che finalmente non è più tentennante come il 2017. Per l'Italia la ripresa dei consumi interni è fondamentale, il periodo dei saldi inaugura la stagione, l'anno nuovo, quindi è altrettanto importante riuscire a capire, vedere come andranno i saldi. Diciamo che le previsioni per quanto ci riguarda sono buone, una spesa media comunque pro capite che è abbastanza elevata, una presenza di consumatori che si annuncia comunque fortemente interessata a questo particolare periodo dell'anno per fare gli acquisti e quindi potrebbe essere veramente un 2018 che parte bene. Certo. Lo capiremo poi dopo meglio già dal prossimo fine settimana, ecco, quando saranno farete partite, faremo un exit poll sui saldi, esatto. Quindi riusciremo a capire da sabato se effettivamente le aspettative e le previsioni saranno tali, però noi ci auguriamo e speriamo che possa essere così. Quest'anno avete stimato, dottor Bussoni, che sarà particolarmente alto lo sconto medio di partenza. Il 56% dei negozi che avete interpellato con questa indagine di SVG esatto. Partirà con il 30%. Ma voi che cosa fate? Quindi lo chiedete prima quanto sarà l'ammontare di sconto che ogni negozio intende fare? Ovviamente le società alle quali affidiamo l'incarico per fare i sondaggi chiedono direttamente agli imprenditori quali sono le loro intenzioni di sconto e quindi lo recepiamo e poi dopo lo riportiamo, ma devo dire che negli ultimi due anni già le percentuali medie di partenza erano cresciute rispetto agli anni precedenti. In genere prima c'era una posizione a parte dell'imprenditore attendista, nel senso che si partiva con sconti del 20-15 per poi man mano crescere. In realtà però i saldi poi dopo si riducono ad una fiammata di breve durata rispetto invece a qual è la durata intera dei saldi. Non dimentichiamo che i saldi hanno una durata abbastanza lunga, però in genere nelle prime due o tre settimane consuma gran parte del volume certo. dei saldi. Non quindi è che i saldi hanno durata lunga, che cominciano anche molto prima, ovviamente sappiamo che no, lei ci sorride, so che per voi questa è una nota dolente per la verità, però. Guardi, in realtà poi dopo ogni imprenditore fa la politica. E che quest'anno non è servito neanche quello, da quello che mi dice lei. Non è servito neanche quello, ci sono politiche di vendita particolari, lei pensi solamente l'online, il fatto i factory outlet, è difficile riuscire a stabilire, diciamo così, delle regole precise, però il periodo dei saldi è comunque un periodo molto importante perché nello stesso momento il consumatore ha la possibilità di comparare le diverse offerte che vengono fatte, quindi è bene mantenerlo. Se ci fosse più rispetto delle regole in senso generale, non solo dei saldi nel nostro paese, probabilmente andrebbe meglio. Lo sa che in ogni campo il nostro paese non brilla mai esattamente per questo. Quello quando si può svincolare lo si fa volentieri. Senta, allora, Codacons, un'associazione dei consumatori, stima che una famiglia italiana spenderà circa 168 euro per approfittare dei saldi, quindi un calo del budget disponibile per questa operazione di circa il 7% rispetto allo scorso anno. Confcommercio, la vostra organizzazione concorrente, parla di una spesa di 330 euro a famiglia. Voi siamo in linea, noi diciamo 150 euro a persona, quindi le tenga conto che mediamente le famiglie sono composte da 2,3, quindi siamo in linea. Diciamo che il Codacons in questo momento, detto alla Renzi, fanno un po' i gufi, speriamo che non abbia ragione. Senta, a proposito di gufi, intanto però voi evidenziate nella vostra indagine che ho più volte citato che persiste lo stato di sofferenza del settore. Questo risulta ancora evidente dalle tante chiusure di esercizi commerciali registrate durante l'anno e questa tendenza riguarda ovviamente le imprese del settore tessile. Che situazione vivete da questo punto di vista? Il settore tessile è già da tantissimi anni che vive in una condizione di difficoltà e comunque di riduzione dei punti vendita. Quest'anno chiuderanno ulteriormente 2.400 esercizi di questo settore e si tenga anche conto che però nel nostro paese sono cambiate fortemente le abitudini. Se andiamo indietro di non più di una decina di anni fa, comunque nel budget delle famiglie italiane il 9% era destinato agli acquisti di articoli di moda. Siamo arrivati ad oggi che la percentuale oscilla fra il 5 e il 6%, quindi si acquista meno, il fattore moda ha meno appeal rispetto al passato, c'è ovviamente maggiore concorrenza, c'è una situazione anche di crisi economica ed occupazionale. Tutto questo ha comunque portato questo settore a vivere una crisi molto molto profonda, così come lo era stato in precedenza per gli esercizi specializzati del settore alimentare. Bussoni, io la ringrazio per essere stato con noi, nonostante l'influenza, perché mi sembra messo bene lei oggi. Speriamo che i saldi le diano solamente un po' di raffreddore. Un raffreddorone. Okay. Grazie per essere stato con noi, buoni saldi a lei naturalmente e a tutti, commercianti e consumatori, fateli ovviamente. Noi approfittiamone, i commercianti devono essere assolutamente allineati secondo le regole di un saldo trasparente per i consumatori. Ci fermiamo, adesso c'è il giornale radio, ma noi torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Focus Economia. Il segnale orario vi è offerto da Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Focus Economia. Ci ritrovati a Focus Economia per la seconda parte del nostro programma dedicato all'approfondimento dei principali argomenti economico-finanziari della giornata. Allora, prima delle prossime due interviste, qualche notizia flash divulgata poco fa. Intanto il fabbisogno del settore statale nel 2017 si attesta sui 53,2 miliardi di euro, con un aumento di circa 5,4 miliardi rispetto all'anno precedente. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia, specificando che al risultato hanno contribuito il buon andamento del gettito fiscale, che ha beneficiato anche della rottamazione, e gli incassi pari a circa quasi 2 miliardi per la proroga delle frequenze 900 MHz. Il fabbisogno sconta però gli effetti dei provvedimenti per la salvaguardia di banche e risparmiatori per un importo di circa 10 miliardi. La spesa per interessi ha registrato una contrazione di oltre 1,4 miliardi e questa è una notizia. Un'altra importante, la leggo insieme a voi, sono state 75.885 le domande di REI, reddito di inclusione, varato poco fa, lo ricorderete, è stato possibile presentare le domande da inizio dicembre, adesso inizia l'erogazione, le domande appunto pervenute all'INPS nel periodo compreso fra il 1 dicembre e il 2 gennaio, quindi oggi l'INPS ha fatto già subito il check-up di tutte le domande arrivate. Le regioni da cui sono state trasmesse il maggior numero di domande sono la Campania e la Sicilia, seguite dalla Calabria, superiori alle 5.000 le domande trasmesse da Lombardia e Lazio. Infine, un dato che commenteremo nel dettaglio tra pochissimo. Allora, avevamo in programma di segnalare le immatricolazioni di auto registrate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in dicembre. Abbiamo intanto il dato complessivo del 2017 tutto. Il mercato italiano è riuscito a portare a casa 1.970.000 nuove immatricolazioni lo scorso anno, con una crescita rispetto al 2016 del 7,92%. Per quello che riguarda il mese di dicembre, invece, abbiamo 121.000 immatricolazioni di auto nuove, con un calo del 3,17%. Adesso non ricordo mai se questo dato percentuale si riferisce ad una decrescita rispetto al mese precedente o rispetto ad un anno fa. Fra un po', quando avremo il dettaglio, ve lo dirò. Detto questo, il dato appunto sulle auto lo commentiamo tra poco. Adesso commentiamo invece un'altra ricerca, ve l'ho anticipata già prima, adesso andiamo a conoscere qualche dettaglio qualitativo in più. Cresce l'ottimismo, speriamo che questo sia un buon auspicio anche in vista di questo trimestre che vivremo con la campagna elettorale, fra le imprese italiane. Il 28% delle imprese monitorate da questa indagine prevede di effettuare assunzioni nel 2018, contro però il 30% di 12 mesi fa, mentre a livello internazionale questa quota sale al 40%. Il 48% delle aziende italiane è inoltre fiduciosa in un aumento dei ricavi collocandosi però leggermente al di sotto della media europea su questo parametro. Sono alcuni dei dati salienti dell'ultimo International Business Report di Graham Thornton. Buonasera ad Alessandro Dragonetti, co-managing partner ed head of tax di Bernoni Graham Thornton. Buonasera Dragonetti, ho detto tutto correttamente per quello che riguarda la sua qualifica? Buonasera e buon anno innanzitutto. Anche a lei, perfetto, grazie. Ottimo. Perfetto, allora, ci racconta per quale motivo elaborate questa indagine e che cosa andate a monitorare? Perché io ho parlato in termini generali di fiducia delle imprese, ma immagino che insomma sia un'indagine molto più elaborata e ricca di temi che affrontate nel dialogo con le aziende italiane e non solo. Dragonetti. Certamente, questa indagine viene svolta trimestralmente su una base di 2500 amministratori delegati di imprese residenti in 36 paesi differenti nel mondo, quindi, e ogni tre mesi misura fondamentalmente lo stato di fiducia che le imprese hanno espresso dai loro chiaramente dirigenti apicali. Parametri di diciamo, misurazione sono il numero di assunzioni che si pensa di poter fare nel trimestre nell'anno successivo, gli investimenti e l'ottimismo, che viene poi declinato in un ottimismo generale e un ottimismo in termini di andamento dei prezzi e andamento della redditività. Ci faccio come allora sì. Prego, continui. No, come ha detto correttamente lei, il 28% delle imprese italiane intervistate hanno espresso diciamo il parere di vedere aumentare la forza lavoro occupata. L'anno scorso lo stesso indice dava il 30. Ma no? Questo secondo lei, intanto analizziamo subito questo dato, perché visto che anche nella prima parte, scandagliando quelli che sono al momento degli abbozzi di programmi elettorali appunto delle forze politiche che si candidano alla competizione del 4 marzo, e avevamo rilevato con il collega del Sole 24 Ore Dino Pesole che in questi programmi elettorali ancora di lavoro poco si parla, per cui non so, le imprese italiane secondo lei sono un po' già scoraggiate anche da questo aspetto, anche se il vostro monitoraggio risale ai mesi scorsi, ma avevano già intercettato il fatto che per loro qualunque forza politica andrà al governo prossimamente per loro faranno poco? Oppure hanno già fatto molto nel 2017, quindi in questo 2018 non sarà necessario assumere molto? Sono preoccupati da una, non lo so, magari di nuovo ritorno ad un colpo di coda della crisi? Che cosa preoccupa le aziende, secondo lei, per cui non hanno potuto implementare questa percentuale di previsione di assunzione di nuovo personale? Ma intanto diciamo che in Italia si parla di elezioni già da tantissimi mesi, quindi fondamentalmente oggi diamo per certo un fenomeno che era abbastanza probabile 7-8 mesi fa, no? Quindi non è nulla di nuovo, diciamo, no? Il dato forse che va letto è la qualità degli aumenti occupazionali, nel senso che con l'Industria 4.0, che è un programma molto forte di riqualificazione di investimenti industriali che il governo ha fatto negli ultimi anni, è più importante avere risorse qualificate che risorse numericamente diciamo importanti. Quindi io guarderei molto, ma questa survey non lo fa, la qualità delle persone assunte, la formazione delle persone che vengono assunte, quindi la loro capacità di utilizzare macchinari tecnologici che oggi come oggi rappresentano la sfida per il futuro, perché l'efficienza, il piano sul quale si gioca la competizione domani, non è il numero di persone che lavorano nell'industria. Ma secondo lei le imprese temono che questi piani non possano diventare tipo 4.0 strutturali, solidi nel tempo? Vorrebbero delle promesse di mantenimento di questi programmi per un periodo di tempo abbastanza lungo da poterci puntare con serietà? Se noi vediamo questa survey, dice che l'anno scorso il 70% delle imprese italiane intervistate si diceva intenzionata a aumentare gli investimenti in tecnologia, quest'anno è solo il 44%, quindi sembrerebbe che la coda di Industria 4.0 non sia finita, ma sia comunque arrivata al massimo l'anno scorso e oggi sia in fase di normalizzazione. Se questo dovesse essere vero, è anche ragionevolmente comprensibile la mite predisposizione all'aumento di personale. Come possono fare, cosa possono fare a livello globale per trarre il massimo dall'ambiente attuale le imprese, facendo sì che il periodo favorevole non finisca con la fine del prossimo anno? Vi siete fatti questa domanda al termine del vostro rapporto, Dragonetti? Che risposta vi siete dati? Sì, ci siamo un po' tipo Marzullo, vi siete fatti la domanda, vi siete dati anche la risposta. Sì, ci siamo sostanzialmente convinti, come peraltro anche il più survey a livello internazionale, in più programmi governativi si legge, della necessità della formazione del personale e di avere personale di eccellenza, quindi la risorsa umana viene riqualificata in un contesto di tecnologia, quindi va bene l'investimento ma ci vuole la risorsa umana qualificata e formata, e un approccio più scientifico alla gestione dell'azienda, cioè l'azienda non può più essere gestita in maniera, diciamo, senza spartito, ma ci deve essere un approccio molto più scientifico nella gestione dell'azienda, con un orizzonte di medio-lungo periodo e non, come a volte capita nel nostro paese, con un orizzonte di brevissimo periodo. Qual è la qualità dei manager italiani, Dragonetti? L'avete scandagliato questo aspetto nella vostra indagine? Io non lo leggo da nessuna parte perché magari ne ho solamente una sintesi, perché potrebbe anche essere questo un problema... Qualità, chiedo scusa, in senso di... Manager italiani che possano portare avanti, ecco, cioè dei piani di sviluppo magari di più lungo termine, che possono rendere un po' più sereno anche il clima. La qualità, se noi guardiamo quanti manager italiani siedono nei board mondiali delle multinazionali più importanti, devo dire che è molto alta, perché molti italiani siedono nei board di gruppi multinazionali con magari testa all'estero e in Italia delle società. Quindi ritengo che il problema non sia il management, perché il nostro management è sicuramente di livello molto alto. Certo. Forse nelle imprese familiari manca il management, che troppo spesso la famiglia ingerisce anche nel processo decisionale come management. E questo è un vero problema ed è la sfida per un'azienda familiare a diventare un'azienda strutturata. Senta, avete notato che ci sono dei settori un po' più dinamici rispetto ad altri, adesso senza andare nello scontato della tecnologia rispetto magari a qualche comparto tradizionale della manifattura, ma qualche sorpresa dal punto di vista dei comparti, dei settori, è venuta fuori da questa inchiesta? Non siamo andati così nel dettaglio, perché non si va a fare un'analisi così scandagliata a livello di industry, anche se le nostre industry sono chiaramente, cioè, siamo sempre forti nei settori tradizionali, nella manifattura, e poi siamo forti chiaramente anche nella tecnologia, in quanto anche da quel punto di vista l'Italia presenta dei casi di assoluta eccellenza. Certo. Abbiamo ancora il problema di non riuscire ad acchiappare, a intercettare in misura soddisfacente le occasioni che ci arrivano dai mercati internazionali, perché abbiamo spesso analizzato il quadro in cui operano le aziende appunto italiane, e molto spesso le colpevolizziamo di non essere capaci di affrontare bene i mercati internazionali, anzi di esserne un po' intimorite. È ancora vero questo aspetto, dottor Dragonetti? Sono ancora troppo focalizzate sul mercato domestico molte aziende italiane, magari perché non hanno anche un adeguato sostegno pubblico? Io mi ricordo, in passato parlavamo tante volte, molto spesso, delle famose operazioni di sistema con cui magari Confindustria, Lice, Ministero dello Sviluppo Economico si mettevano insieme e portavano molti imprenditori sui mercati, quelli che avevano maggiori opportunità di sviluppo e che potevano andare bene anche proprio per gli imprenditori italiani. Hanno ancora un po', peccano ancora un po' di essere troppo domestiche le aziende italiane, oppure ci sono per bene sui mercati internazionali? Allora, la patologia c'è, cioè le aziende italiane sono ancora troppo domestiche, o quantomeno vanno all'estero ma con un ruolo da comprimarie troppo spesso e non con un ruolo da conquistatori, no? Ritengo che l'alibi dell'assenza di infrastrutture, le banche che non aiutano l'esportazione o altre cose oggi non sia più un alibi così forte come poteva esserlo 5, 6, 10 anni fa, perché la pubblica amministrazione, le leggi, le istituzioni hanno fatto dei passi in avanti molto importanti, con anche dei provvedimenti di sistema molto molto corposi, molto efficienti e all'avanguardia nel campo internazionale. Quello che scontiamo è la scarsa capacità di aggregazione dei nostri, sono piccoli, se vanno fuori dal paese, più vanno fuori in forma, diciamo, di gruppo, quindi insieme ad altri, e più sono forti, più vanno fuori dal territorio da soli e più si espongono a una concorrenza e un'efficienza che non sono abituati a affrontare. Ma soprattutto, e questo è il famoso problema che ho già detto prima, è un problema di management. ci deve essere un management che sappia gestire il processo di internazionalizzazione. Senza questo, così fai da te, non si fa nulla, certo, di strutturato. Dragonetti, prima di salutarla, magari ci racconti qualcosa anche rispetto a quello che ha scoperto relativamente a ciò che succede attorno a noi, perché vedo che appunto l'ottimismo che avete monitorato è in forte crescita negli Stati Uniti, dove raggiunge il 79% contro il 54% dello scorso anno. E c'è la Cina al secondo posto, l'ottimismo tra le imprese è al livello più alto degli ultimi 10 anni, segue il Giappone, dove invece la fiducia torna in territorio positivo per la prima volta in quasi 3 anni. Con tutto quello che si è detto su Donald Trump, qua gli Stati Uniti rappresentano forse la vera autentica sorpresa degli ultimi tempi. Che ne pensa? Adesso, a prescindere dalla riforma tributaria che è stata varata da pochissimo, promessa e fatta peraltro, può piacere o non piacere, ma detto fatto, no? Perché hanno avuto questa legge, più che questa legge hanno tutto questo vento in poppa di entusiasmo che arriva dall'alto, e necessariamente, no? Cioè, da noi dall'alto molte volte arrivano lì critiche e problemi, quindi chiaramente la base è un pochino più depressa, no? Cioè, voglio dire, loro hanno questo oggi come oggi stanno vivendo questo sogno di una crescita frutto anche, per non dire in grande parte, dovuta a questa riforma fiscale che non ha precedenti negli ultimi 30 anni, quindi è assolutamente una cosa. Mentre gli inglesi sono al 12% contro il 26%, quindi loro soffrono il fenomeno Brexit. Ah, certo, no? Infatti. Quindi insomma è vero che la politica un po' condiziona tutto il resto. Grazie ad Alessandro Dragonetti, Bernoni Grantorton, per essere stato con noi. Buon anno, a presto. Ok, grazie mille a voi. Buona il traffico, Paolo, sì, con grandissimo ritardo lo mando, per poi andare all'ultimo tema di stasera. Adesso analizzeremo per bene il mercato dell'auto, cosa ci racconta per il 2017, cosa è successo lo scorso mese e sotto quali presupposti si apre il nuovo anno per questo comparto. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. E allora gli ultimi 5 minuti del nostro programma tutti insieme a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera e buon anno Gianprimo, eccoci qua. Buonasera e buon anno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, la motorizzazione comunica di aver immatricolato nel mese di dicembre 2017 121.100 autovetture, con una variazione negativa del 3,17% rispetto all'anno precedente. In tutto il 2017 cosa è successo nel mercato dell'auto in Italia? Te lo lascio raccontare, Gianpietro. Beh, è successo che il mercato dell'auto, dopo 2 anni, con il 2015 e il 2016, con crescite del 16% in ciascuno anno, quest'anno è cresciuto intorno all'8%. È andato tutto piuttosto bene, semplicemente nell'ultimo trimestre dell'anno vi è stato un rallentamento, peraltro modesto, dovuto al fatto che alcune case hanno deciso, avendo già raggiunto i loro obiettivi per il 2017, di ridurre l'impegno sulla promozione, quindi di ridurre sconti, promozioni ed anche i chilometri zero. Quindi questo ha portato a un rallentamento abbastanza modesto in ottobre e in novembre e un rallentamento più forte in dicembre, che è andato in rosso, perché in dicembre c'è stato anche un altro effetto, cioè ci sono stati 2 giorni lavorati in meno, un giorno lavorato vale il 4,5%, quindi un 9% in meno, e quindi sostanzialmente il mercato poi ha chiuso in effetti con un 3% in meno di calo, quindi certo, direi allineato con l'andamento. Invece su base annuale il mercato ha immatricolato 1.970.497 autovetture, la variazione rispetto all'anno precedente complessiva su base annuale è stata del 7,92%. Una cifra attesa, ha sorpreso in positivo Gianprimo, oppure già avevate calcolato? Una cifra attesa, noi avevamo previsto 2 milioni e naturalmente siamo rimasti leggermente delusi, perché la previsione non si è realizzata, però si è sfiorata questa cifra, che è anche una soglia psicologica molto importante. 1.970.000 autovetture sono comunque tante e riportano l'Italia al rango di grande mercato mondiale dell'auto, cioè tra i primi 10 mercati, certo, mondiali dell'auto. Si sta ricambiando in maniera soddisfacente il parco auto degli italiani, alla luce anche di questi numeri? Sì, abbastanza, ma c'è ancora una grossa quota di domanda di sostituzione insoddisfatta negli anni della crisi che ci stiamo faticosamente lasciando alle spalle, quindi il nostro parco circolante è un po' ringiovanito negli ultimi 3 anni, ma è ancora tra i più vecchi nell'Unione Europea. C'è un boom delle flotte aziendali, lo evidenziava anche un pezzo sul sito del Sole 24 Ore della collega Filomena Greco. È così e perché? Sì, c'è un boom, più che delle flotte aziendali, c'è un boom del noleggio a lungo termine. Questo perché c'è un'agevolazione che è quella dei superammortamenti di cui le società di noleggio possono beneficiare. Questo ha spinto molto le immatricolazioni delle società di noleggio. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è che c'è stata una forte crescita dei chilometri zero, e i chilometri zero sono auto che vengono immatricolate a società, in genere ai concessionari, e di conseguenza questo va ad aumentare il numero delle immatricolazioni che si riferiscono ad aziende, quindi in generale si pensa che siano flotte, però non è proprio così, perché i chilometri zero vengono poi nel giro di qualche mese rivenduto ai privati, e quindi sostanzialmente questo boom va ridimensionato e va ricondotto soltanto, secondo le nostre valutazioni, agli incentivi fiscali dei superammortamenti, che andranno avanti fino anche nel primo semestre del 2018 per le vetture ordinate dalle società di noleggio. Le auto ad alimentazione alternativa alla benzina, mi pare che anche qua i numeri non siano trascurabili. Sì, stanno crescendo, la quota è in aumento, è un aumento però soprattutto per l'ibrido, mentre non va così bene per il metano e il GPL, e non va bene neppure per l'elettrico, perché l'elettrico puro è vero che cresce in percentuale moltissimo, ma cresce sulla base di dati molto bassi, quindi il numero effettivo delle auto elettriche, tutte elettriche, circolanti e immatricolati in quest'anno è ancora molto modesto. Certo. Benissimo, io ringrazio Gianprimo Quagliano, penso di aver detto tutto rispetto alla statistica diramata poco fa dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Abbiamo lasciato indietro qualcosa, Gianprimo? Fiat lo racconta agli ascoltatori curiosi: in dicembre ha immatricolato 31.909 auto e la quota di mercato del lingotto, chiamiamolo ancora così, è al 26,4%. Abbiamo qualcosa da aggiungere? Direi che sei stata perfetta, come sempre. Certo. Chissà se lo sono anche alla guida, ma questo non devo essere io a dirlo, secondo me abbastanza, ma lo devono dire gli altri, quelli che trasporto. Grazie a Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor, grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica, Barbara Bianchi per l'assistenza psichiatrica e psicologica in redazione. Io torno domani sera anche a Focus Economia. Buona serata a tutti. Radio 24, libera la voglia di fare.